non so fare. E faccio un bel gavettone, pronto. Passate a fare una tomata, io non so fare. Vuoi che te ne fa il 24 3364 e piombo di telefonata